2024 2024 di Enrico Pagliarini. Oggi c'è Roberto Scaltritti che si occupa della parte tecnica, che salutiamo. Buon anno a tutti, visto che questa è la nostra prima puntata, la puntata del 7 gennaio 2012. Benvenuti o bentornati a 2024. Questo è il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Abbiamo un ottimo servizio podcast, quello di Radio 24, e vi invito ad abbonarvi gratuitamente per ricevere, scaricare per meglio dire, il file MP3 della nostra trasmissione settimana dopo settimana. I nostri indirizzi, ovvero le modalità per contattarci, in questo momento è attiva la nostra pagina su Facebook, se volete potete partecipare alla trasmissione anche attraverso questo canale, oppure potete chiamarci, ancora meglio, il nostro numero verde è 800 24 00 24. Martedì inizierà a Las Vegas, nel deserto del Nevada, il Consumer Electronics Show, il più importante appuntamento al mondo per il mercato dell'elettronica di consumo, dove sono stati lanciati molti dei prodotti che hanno fatto la storia della tecnologia. Pensate che il CES, il Consumer Electronics Show, appunto esiste dal 1967, e dopo l'anno record è stato il 2008, quest'anno, se va bene, ci si aspettano 150.000 visitatori, che sono visitatori professionali, quindi è un pubblico tutt'altro che da buttar via. Insomma, sono moltissime le persone. Ci saranno 2.700 espositori, bisognerebbe avere un team di giornalisti solo per visitare gli espositori minori, non sempre i soliti grandi, classici grandi. Già domani inizieranno le conferenze stampa, sicuramente dedicheremo ampio spazio nella prossima puntata di 2024. Questa mattina ho chiamato alcuni giornalisti che stavano partendo da Milano per raggiungere il Nevada, e sicuramente, insomma, ci saranno molte notizie. È, dicevo, ancora una delle poche fiere che vale la pena di seguire, ma negli Stati Uniti ci si interroga e ci si fanno un po' le stesse domande che gli addetti ai lavori si fanno in tutto il mondo, ovvero: per quanto tempo ancora le grandi aziende, soprattutto le grandi aziende, quelle che investono milioni di dollari, continueranno ad essere presenti? La Apple, ad esempio, da anni non partecipa a nessuna di queste fiere perché vuole controllare tutto il flusso della comunicazione e anche la data di uscita degli annunci. Quindi decide l'azienda quando fare gli annunci e non bisogna essere costretti a confondersi con le decine di comunicati stampa che escono da una fiera come il Consumer Electronics Show. Alla stessa cosa sta pensando ad esempio la Microsoft, e forse parteciperà al CES per l'ultima volta, vedremo. Novità ci saranno sicuramente, a partire dal settore TV, che è storicamente quello più interessante al Consumer Electronics Show. Sono stati già fatti alcuni annunci, pensate, TV da 55 pollici, e questa non è una novità assoluta, ma con schermo super sottile e questa nuova tecnologia che già da qualche tempo vi raccontiamo e che conosciamo, che è l'OLED, da non confondere con i LED, è una tecnologia diversa. Adesso si stanno facendo alcuni display molto piccoli e molto costosi. LG è stata la prima, ma sicuramente anche altri produttori lo faranno annunci di questo genere, a dire: beh, saremo in grado entro la fine dell'anno, entro la fine del 2012, di proporre al mercato grandi schermi con questa nuova tecnologia a prezzi concorrenziali, perché oggi degli schermi da pochi pollici, non più di 20 pollici, costano migliaia di dollari. E poi ci saranno prototipi di schermi a super alta definizione. Ancora molti non si sono abituati, adeguati alla alta definizione normale, che qua già si parla di QHD, ovvero quadri HD, immagini quattro volte più definiti rispetto alla tradizionale alta definizione. Allora, seguiteci la prossima settimana, sicuramente avremo molte notizie. Chissà se ci sarà, come dicono negli Stati Uniti, anche qualche wow announcement, quindi annunci di quelli che ti fanno pronunciare ed esclamare: wow, che bello, insomma, una novità assoluta. Sempre negli Stati Uniti c'è un dibattito molto intenso, non abbiamo mai parlato e faremo presto un approfondimento. Allora, su una proposta di legge che si intitola SOPA, SOPA, che sta per Stop Online Piracy Act, quindi una legge molto severa per fermare la pirateria online. Certo, quando si getta, potremmo dire, la rete per pescare gli squali, ci finiscono dentro anche i pesci buoni, e per questo c'è, oltre che un forte dibattito, anche molte polemiche, molte critiche, e quasi tutte le aziende che operano in rete, Google, Facebook, Yahoo, eccetera eccetera, si sono schierate contro il SOPA. Il timore è che una censura troppo forte possa in realtà frenare l'innovazione e la creatività che negli ultimi tempi ha fatto la fortuna di molte aziende americane, di fatto ha decretato la superiorità tecnologica degli Stati Uniti. Dopo la pausa estiva, il Senato riprenderà il dibattito sul SOPA il 24 di gennaio. Allora, visto che di cose del genere si sta discutendo non solo negli Stati Uniti ma in molti stati, di leggi, provvedimenti per tentare di frenare la pirateria, e chi detiene i diritti ha in parte ragione, ma insomma il timore è che poi si passi a provvedimenti troppo severi. Allora, in buona parte del mondo, ma soprattutto in Nord Europa, i pirati, quelli organizzati e non quelli che stanno in mare, i pirati della rete, fanno proposte di vario genere. Ad esempio, una fatta ad una recente conferenza di Berlino dice: facciamoci la nostra rete al riparo dal controllo degli stati. Dove la facciamo? Nello spazio. Allora l'idea è quella di raccogliere qualche milione di dollari per lanciare un satellite nello spazio per creare questo network indipendente. Idea affascinante, ma sicuramente difficile da realizzare. Adesso parliamo di cose serie, però parliamo sempre di milioni di dollari raccolti. Parliamo di Wikipedia, molti di voi la conoscono, è una enciclopedia gratuita e libera online. Allora, per continuare a sopravvivere ha bisogno di molte donazioni, molti soldi donati dagli utenti. La campagna 2011 che si è appena chiusa ha raccolto in tutto il mondo 20 milioni di dollari, pensate, 20 milioni di dollari che sono finiti nelle casse di Wikimedia Foundation, la fondazione che pubblica l'enciclopedia online. Come verranno utilizzati questi soldi? A che cosa servono? Ne parliamo con Frida Brioschi, che è presidente di Wikimedia Italia. Bentornata a 2024. Grazie. Io ho già citato Wikimedia e non solo Wikipedia, allora vorrei partire da qua e ribadire che Wikipedia è un nome tra i più conosciuti del mondo, uno dei siti più visitati al mondo, però dietro c'è una fondazione americana e una serie di associazioni a livello internazionale. Partendo dall'Italia, com'è la struttura? Allora, in Italia abbiamo Wikimedia Italia, che è un'associazione culturale non profit che si occupa di fare promozione per Wikipedia e per gli altri progetti di Wikimedia Foundation, perché sono 9 i progetti, sul suolo italiano, per cui ci occupiamo di raccontarla a chi ce lo chiede, di portarla nelle scuole, eccetera eccetera. Sul nostro stesso modello ci sono una trentina di altre associazioni che si muovono in tutta Europa e anche ormai nel resto del mondo. A capo di tutto questo c'è Wikimedia Foundation, che è appunto, come dicevi, la fondazione americana che si occupa in prima battuta di sostenere tutti questi progetti, che è realmente proprietaria dei server, dei marchi, eccetera eccetera, ed è quella che poi ha fatto effettivamente la campagna di raccolta fondi che si è appena conclusa. Questa fondazione è stata fondata da Jimmy Wales, che avrebbe potuto, vista l'idea che ha avuto, utilizzare questo nome e questo progetto Wikipedia per farci su dei soldi, perché immaginiamo se uno mettesse un po' di pubblicità su Wikipedia, quanti soldi potrebbe generare. In realtà ha donato tutto a questa fondazione. Siamo sicuri che è tutto in cassaforte? Sì, assolutamente, lo statuto della fondazione parla molto chiaro e Jimmy non si è mai pentito, almeno ufficialmente, di questa sua scelta, che ormai ha fatto quasi 9 anni fa, perché Wikimedia Foundation è nata nel giugno del 2003. E però il 15 gennaio è successo qualche cosa di più ufficiale. Assolutamente, il 15 gennaio del 2001 è nata Wikipedia. E quindi quest'anno festeggeremo gli 11 anni, che è un traguardo bellissimo e importantissimo e su cui pochissimi avrebbero scommesso all'inizio. Esatto. A proposito della fondazione, questa è una fondazione che diciamo fa una parte forse fondamentale del lavoro, perché mantiene in vita tutto il sistema, ma in realtà poco del lavoro che noi vediamo e leggiamo su Wikipedia. Cioè, quante persone lavorano alla fondazione? Alla fondazione circa 120, ma come dicevi sono tutte persone che si occupano del back office, di quello che sta dietro a Wikipedia. Nessuna di loro lavora direttamente sui contenuti, ma lavorano tutti a temi connessi, per cui veramente si occupano di raccolta fondi, si occupano della parte tecnica, si occupano della parte legale, ma nessuno è pagato per scrivere. Ecco, allora questi 20 milioni di dollari che sono stati raccolti a livello mondiale via internet nel 2011, a che cosa servono? Beh, in parte a pagare lo stipendio di queste 120 persone, ma sicuramente la parte più importante è quella che riguarda i costi tecnologici, per cui tutta l'infrastruttura che serve per tenere in piedi Wikipedia, i server, la banda, eccetera, eccetera. Poi ci sono un po' di costi relativi allo sviluppo software e in particolare quest'anno ci saranno un po' di costi relativi allo sviluppo per nuove piattaforme, per cui per le piattaforme mobili. Cioè in questo momento esiste già una app che permette di consultare Wikipedia dagli smartphone, non esiste una che permetta di scrivere direttamente e su questo stanno lavorando, e leggevo l'altro giorno che stanno lavorando anche su una app che ti permetta di consultare Wikipedia offline, cioè se sei in giro col tuo smartphone ma non c'è una copertura e quindi non sei connesso alla rete, poter consultare comunque Wikipedia. Quindi un'app che scarica dati per poi lasciarti insomma consultare anche se non sei collegato a internet. Diceva Frida Briowski dei server, della banda, quando noi ci colleghiamo ad un sito internet normalmente pretendiamo, anche se inconsciamente, che questo sito internet ci restituisca l'informazione che cerchiamo in modo molto veloce, e Wikipedia è uno di questi, la velocità con cui questo avviene dipende in buona parte non solo dal nostro collegamento a internet, ma soprattutto da quanto potenti sono le macchine che stanno dall'altra parte e quanta capacità di banda, quindi capacità di far transitare i dati sulle reti internet, anche lo stesso sito internet acquista dai grandi gestori. Quindi una parte di questi soldi appunto vengono spesi proprio per questo. A voi che posizione risulta della top 10 della classifica dei siti mondiali? Perché stiamo parlando di un sito internet che, pensate, è uno dei primi 10 al mondo, quindi una cosa veramente incredibile. Frida, a voi che numero risulta? Quinto, stabilmente al quinto posto. Insomma, che è un risultato impressionante, perché se pensiamo, forse davanti a voi ci sono solo Google, Facebook, Yahoo e pochi altri. Sì, Microsoft e poco altro, è impressionante, c'è una bellissima slide che ogni tanto usiamo nelle nostre presentazioni che mostra la quantità di impiegati che hanno ciascuno di questi colossi che sono prima di noi e anche dopo di noi, rispetto a quante poche persone in fondo lavorino a Wikimedia Foundation e tengano in piedi tutto il sistema. Senti, quante persone volontari in giro per il mondo partecipano alla costruzione di Wikipedia, quindi quante persone scrivono le voci di Wikipedia? Durante la campagna di raccolta fondi che voi avete fatto nel corso dello scorso anno c'erano delle immagini di persone che addirittura avevano scritto 2.000, 3.000, 5.000 voci di Wikipedia. A parte che a volte mi chiedo questi quanto tempo hanno, ma magari su questo, magari su questo possiamo discutere. Insomma, ma quanti sono quelli che contribuiscono? Circa 30 milioni in tutto il mondo. Incredibile, cioè da gente che magari fa solo una correzione a gente che invece scrive delle vere e proprie voci. Certamente, poi ci sono anche le persone che si interessano della governance, perché le regole di Wikipedia le fanno le persone che collaborano al progetto e quindi ci sono persone che si interessano anche di questa parte, non solo di scrivere e correggere, perché serve tutto questo insieme per far andare avanti il progetto. Senti, a proposito di persone che collaborano, vi siete mai, immagino che abbiate un profilo, però quelli che fanno appunto queste centinaia o migliaia di voci, che sono professori, ricercatori universitari, studiosi, gente del genere? Sì, ma anche persone assolutamente, come dire, normali che hanno, perché no, la terza media, sono degli artigiani oppure dei ragazzi che sono ancora a scuola. Non esiste in realtà il wikipediano medio, la figura della persona ideale che scrive su Wikipedia, perché la nostra è una comunità molto sfaccettata. L'unica cosa che sappiamo è che quasi sicuramente è maschio, perché ahimè le signore sono molto poche, attorno al 10-15%. chissà come mai. Boh. Non avete una risposta? No, però stiamo facendo lunghe indagini e c'è un comitato che si occupa di studiare questa cosa, perché per noi tutto sommato è un problema. Sì. Perché cerchiamo di avere una comunità il più possibile bilanciata e la disparità tra i sessi ci pesa sicuramente. Detto poi dal presidente italiano, che è una donna. Ahimè, le donne, quelle poche che ci sono, poi fanno carriera. Anche il direttore esecutivo di Wikimedia Foundation è una donna, su Gartner. Quella proprio mondiale? Sì, quella proprio mondiale. Che sta dove? A San Francisco. San Francisco. Senti, visto che una delle domande ricorrenti è come facciamo ad essere sicuri che su Wikipedia ci sia scritta la verità, visto che Wikipedia è diventata, devo dire anche per molti giornalisti, una fonte di informazione, oltre che molto veloce, molto rapida, perché è su internet, anche molto affidabile, cioè viene data a Wikipedia una credibilità molto elevata. Allora, sicuri non lo possiamo essere, però ci sono una serie di, come dire, dinamiche che ci garantiscono che spesso le cose che ci sono scritte sono giuste. Beh, insomma, tutte le voci quando vengono scritte poi c'è spitamente qualcuno che sempre le rivede, perché ci sono una parte dei nostri utenti, quelli che solitamente sono gli utenti più attivi, che scrivono poche voci ma si occupano di rivedere tutte quelle che arrivano. Quando una voce arriva, se è ben fatta, di solito non succede nulla, ma se ha dei problemi viene apposto un banner in testa alla voce, quindi un'indicazione che dice attenzione, guarda che la voce che stai leggendo ha questi problemi, e i problemi poi vengono elencati, se ha più problemi compaiono più banner, quindi quello è il primo avviso per chi sta leggendo la voce, in modo che il nostro lettore sia in qualche maniera consapevole del fatto che ci possono essere dei problemi. E poi la garanzia totale, come accennavi, non esiste mai. Il consiglio che noi diamo sempre per un uso corretto di Wikipedia è partire da Wikipedia per la ricerca di informazioni, ma poi approfondire, magari utilizzando i collegamenti esterni che noi segnaliamo, o meglio ancora le note che indicano i punti dove noi siamo andati a recuperare quella informazione. Per cui da lì si può sicuramente approfondire e validare quello che uno sta leggendo. Abbiamo detto prima della raccolta fondi che ha portato nelle casse di Wikipedia in tutto il mondo 20 milioni di dollari. Sono molti soldi o sono pochi soldi dal vostro punto di vista? Perché se pensiamo che, appunto, tu dici se Wikipedia è il quinto sito più visitato al mondo, o comunque uno, insomma, dei più visitati al mondo, per far funzionare altri siti, certo, con dinamiche completamente diverse, ma servono altro che 20 milioni di dollari. Sì, no, certamente, dal nostro punto di vista non sono tanti soldi. Di solito, come dire, Wikimedia Foundation non c'ha l'acqua, copre le sue spese, anche perché essendo un'organizzazione non profit non può fare diversamente. Sicuramente per me, che sono arrivata quando Wikipedia aveva un costo quasi pari allo zero o poco più, insomma, mi sembrano tantissimi soldi. Vista in prospettiva, però, devo dire che è semplicemente una crescita costante. Tanto più cresce Wikipedia, tanto più crescono le persone che la consultano, tanto più cresce il budget. Non cresce in maniera, come dire, esponenziale, ha smesso di raddoppiare di anno in anno, e quindi tutto sommato mi sembra che ci avviciniamo anche a una crescita più sostenibile. A parte la raccolta fondi, cioè la campagna, diciamo, uno può donare in qualsiasi momento dell'anno, con che cosa, con che tipo di strumento? Solo online, carta di credito? Dunque online, carta di credito, PayPal, oppure con bonifico bancario. Wikimedia Foundation ha un conto in Europa, adesso non ricordo esattamente in che paese del mondo, ma si può donare direttamente in euro, oppure si può passare tramite un chapter, per cui ad esempio tramite Wikimedia Italia, e donando tramite noi la donazione è anche deducibile. Dalla dichiarazione dei redditi? Sì, esattamente. A proposito dell'Italia, quanti soldi arrivano dall'Italia? Perché uno potrebbe pensare, gli americani sono abituati a questo genere di dinamiche, magari gli italiani un po' meno, è così o no? Sì, all'inizio soprattutto. Devo dire che quest'anno, forse complice il blackout dell'edizione italiana, hanno donato in tantissimi, hanno raccolto negli Stati Uniti quasi $1 milione di dollari, che è circa il triplo dell'anno scorso. Adesso stiamo ancora aspettando la cifra definitiva, ma grosso modo $1 milione. $1 milione dall'Italia. Quindi gli italiani che hanno donato a Wikipedia, o comunque Wikimedia Foundation, hanno donato quasi attorno al milione di dollari. Esattamente, tra l'altro anche loro, per quel che ne sappiamo, rientrano in quella che è la donazione media, cioè noi non riceviamo mai grandissime somme tutte d'un botto, a parte il fondatore di Google quest'anno, ma riceviamo tantissime piccole donazioni, per cui la donazione media di solito è attorno ai $20. Allora, fondatore di Google, Larry Page intendi? Sì, mezzo milione di... ci ha dato $500,000 di dollari al novembre. Speriamo che ve li dia anche Sergey Brin, non solo Larry Page. Visto che i fondatori di Google sono due, 500 milioni a testa, 500.000 scusa, 500.000 giusto? Sì, 500.000. Mezzo milione, esatto. Senti, prima di salutarti, volevo, visto che tu hai accennato agli altri progetti che ci sono assieme a Wikipedia, quali sono almeno i più importanti? Perché effettivamente a volte uno finisce dentro alle pagine di questi progetti, ma non ci rendiamo ben conto e magari vengono anche poco utilizzati. Quali sono? Allora, sicuramente quello di cui non si può fare a meno, perché è veramente ben fatto e poi è grandissimo, perché ha qualche milione di oggetti al suo interno, è Wikimedia Commons, che è il nostro repository di immagini, video, suoni, che è molto utile. Quando la gente mi chiede dove posso recuperare delle immagini per una presentazione, io lo suggerisco sempre. E poi Wikisource, che è la nostra biblioteca online, che raccoglie testi editi rilasciati in pubblico dominio o con una licenza Creative Commons. E poi Wikiquote, che è una raccolta di aforismi e citazioni. Bene, ringrazio Frida Brioschi per essere stata con noi. Buon anno e buona festa per questo 15 gennaio. Cosa state organizzando? Per il momento ancora niente. Puntiamo a maggio, quando effettivamente è nata l'edizione in italiano. Ah, ok, perché niente è un po' poco. No, infatti, non possiamo lasciarcelo scappare, ci mancherebbe altro. Grazie, buon lavoro, buon anno e auguri. Anche a voi, grazie. Noi quest'anno non organizzeremo nulla alla radio, l'anno scorso abbiamo dedicato un approfondimento, una puntata speciale per i 10 anni di Wikipedia. Sono Wikipedia, come dicono in redazione alcuni, come Giorgio De Luca, che oggi salutiamo in redazione con noi. Sono le 15:53 minuti, sentiamo Lorenzo che ci telefona da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo un'informazione su Wikipedia. Ma i 20 milioni di dollari hanno raccolto, è l'unico supporto che hanno per tutto l'anno? È l'unico supporto hanno, è sorprendente in effetti, vero Lorenzo? Sì, cioè, che riesca a supportarsi economicamente soltanto con le donazioni. Sì, esatto. Tu Lorenzo utilizzi Wikipedia, eccetera? Sì, molto. Ti sembra, hai qualche nota da fare? No, è molto completa e... non manca veramente niente. Lorenzo, grazie di aver chiamato in questa puntata di 2024. Ricordo ai nostri ascoltatori che apriremo i telefoni anche nella seconda parte per parlare di Facebook. In effetti molti aspetti di Wikipedia sono sorprendenti per quello che sono riusciti a fare. È anche vero che alcune voci non sono perfette, a volte notiamo qualche errore, anche noi in redazione la utilizziamo molto, e devo dire che questa settimana, nonostante fosse ancora una settimana un po' di vacanza, abbiamo fatto qualche telefonata alle enciclopedie tradizionali, quelle di carta, quelle che ancora vengono stampate in 10, 15, 20 tomi che costano ancora un sacco di soldi, per chiedere quale futuro vedono queste società. Beh, devo dire che abbiamo ottenuto poche risposte, e probabilmente questo è anche un problema di diversità delle fonti, probabilmente queste enciclopedie non avranno futuro, perché non esiste più, visto che esiste e c'è Wikipedia, un futuro commerciale per queste aziende, che per il momento non stanno pensando all'online, o comunque se lo stanno facendo non ce lo comunica. Abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. Partiamo da Nokia, che ha appena lanciato sul mercato italiano il secondo dei suoi Windows Phone. Dopo il Lumia 800 arriva in Italia anche il modello più economico, il Lumia 710 a 299 euro. Molte caratteristiche sono simili al fratello maggiore, con l'aggiunta di 5 cover intercambiabili, quindi un giorno uno si mette la cover gialla, l'altro giorno la blu. Il Lumia 710 ha le due applicazioni personalizzate su cui Nokia sta puntando in questo momento, cioè il navigatore Nokia Drive e anche Nokia Music per ascoltare la musica in streaming. Nuovo capitolo della battaglia legale che contrappone da oltre un anno Samsung ed Apple. Questa settimana il Tribunale Civile di Milano ha respinto l'istanza di Samsung, che chiedeva il ritiro dell'iPhone 4S per violazione di alcuni brevetti. Dopo mesi di ricerche, Yahoo ha trovato il nuovo amministratore delegato. Si tratta dell'ex numero uno di PayPal, Scott Thompson, che entrerà nel suo ufficio a Santa Clara il 9 gennaio. È da settembre, pensate, che l'azienda cercava un nuovo capo, da quando è stata licenziata Carol Bartz, che non è riuscita a rilanciare la società in 2 anni e mezzo. Yahoo sta subendo la concorrenza di Google e di Facebook, soprattutto negli Stati Uniti, ma rimane uno dei network più visitati al mondo. Ad esempio c'è Flickr, che fa parte del network di Yahoo, e anche uno dei network di raccolta pubblicitaria più importanti. Alla vigilia dell'apertura del Consumer Electronics Show, Lenovo ha annunciato una riorganizzazione che riguarda anche l'Europa, e Gianfranco Lanci, che avete sentito anche dai microfoni di 2024, diventerà dal 2 aprile responsabile dell'area Europa, Medio Oriente e Africa. Lanci è stato fino al marzo 2011 amministratore delegato di Acer e da pochi mesi è consulente per il rivale cinese Lenovo. Secondo la International Telecommunication Union, cioè l'Agenzia delle Nazioni Unite per le Telecomunicazioni, un terzo della popolazione mondiale naviga su internet e il 45% degli utenti ha meno di 25 anni. I cellulari sono stimati in 5,9 miliardi su una popolazione che lo scorso anno ha raggiunto i 7 miliardi. Un'ultima notizia, vi do un'ultima notizia che riguarda un sito che vi invito anche a visitare, si chiama SoundCloud, che si definisce anche lo YouTube dell'audio, ha raccolto da pochi giorni 50 milioni di dollari ed è una buona notizia per una startup molto promettente. Matteo Flora, benvenuto a 2024, sarà con noi nella seconda parte, fondatore di The Fool. Buongiorno, ciao Matteo. Buongiorno a voi. The Fool vuol dire un pazzo, che saresti tu? Vuol dire il matto, è la carta dei tarocchi, la carta zero dei tarocchi, che rappresenta la forza primigenia creatrice. Senti, in 20 secondi, come ti definisci, ma soprattutto tu che cosa fai? Perché cercheremo di partire da qui nella seconda parte di 2024. Io dirigo questa banda di matti che è The Fool, che sono una trentina di giovani professionisti, tutti sotto i 30 anni, e ci occupiamo di tutta la gestione degli user generated content, quei contenuti che gli utenti mettono spontaneamente online, in 3 direttive principali: la parte di reputazione online e reputation, la parte di gestione dell'ordine e moderation, e la parte di gestione del caring, quindi del supporto, che è il social CRM. Sì. Bene, di questo parleremo. Io ho detto Facebook per farci capire, in realtà non c'è solo Facebook. Ci sentiamo dopo le notizie di GR24, numero verde 800 24 00 24. 2024. Questa è una giornata di sole a Milano che rimbalza in uno specchio qua vicino e sulla faccia di Matteo Flora, che è il nostro ospite. Bentornati a 2024, questa è la seconda parte del nostro programma. Grazie a Roberto Scaltritti, che si occupa della parte tecnica, il nostro numero verde per chiamarci in diretta in questa seconda parte del nostro programma, 800 24 00 24. Vi risponderà Rosa, che è una grande utilizzatrice di Facebook, e magari potete fare una chiacchierata anche con lei. Io dicevo, Facebook è sicuramente il social network più famoso, più noto, forse anche più frequentato. Matteo Flora è, come dicevamo poco fa, fondatore di The Fool, una società che si occupa professionalmente di quello che accade sui social network. Dicevamo poco fa, Matteo, che tu praticamente hai industrializzato quello che uno fa o dovrebbe fare, sulla propria pagina di Facebook o di un altro social network. Cioè dovremmo tutti moderare un pochettino, curare la privacy, eccetera, eccetera. Tu hai industrializzato tutto. Sì, abbiamo industrializzato alcuni tipi di processo, che sono quelli, ad esempio, della moderazione dei contenuti, non tanto a fine censorio quanto a fine di riportare la conversazione rispetto a quelli che sono i temi della pagina principale. Sulla pagina di un produttore di telefonia non è corretto che si parli di intrattenimento generale o di cronaca, esatto, perché non è quello il luogo, cioè, deputato a quello, e in più tutta la parte in realtà di reportistica che consente di capire chi sono i nostri clienti, come approcciano il nostro brand, i nostri marchi, i nostri tipi di prodotto, e anche per ciascuno di questi capire qual è la percentuale di apprezzamento o non apprezzamento e quali sono le problematiche possibili. Dunque, i tuoi clienti, cioè tu lavori per personaggi dello spettacolo? Noi lavoriamo per personaggi dello spettacolo, personaggi della politica, lavoriamo per aziende di prodotto, aziende di servizi, per istituti bancari, per broadcaster, per tutta la parte di intrattenimento, per programmi televisivi e non televisivi, e anche per pubbliche amministrazioni. E sostanzialmente tu curi le pagine. Tu dicevi user generated content, però ripeto, io citavo Facebook per farci capire. In realtà che parte ha Facebook in tutto quello che voi fate? Facebook è una parte importante su quelle che sono le own property, cioè le proprietà del marchio e del brand, che normalmente sono la propria pagina Facebook, il proprio sito web in cui magari si lasciano aperti commenti e non commenti, recensioni, e la parte ad esempio del proprio blog aziendale. È una parte importantissima perché è quella parte che gli utenti hanno a disposizione, gli utenti web della rete, gli utenti 2.0, per discorrere direttamente con il marchio e con il brand. Esistono altre parti, ovviamente, non sempre l'utente parla del mio prodotto, del mio servizio sulle mie pagine. Magari ne parla in community dedicate, ne parla nei suoi blog o ne parla in altri tipi di siti web. Quindi normalmente quando noi andiamo a cercare qual è la mia reputazione online, ci dobbiamo dividere nella parte di mie proprietà, la mia pagina Facebook, il mio blog, il mio sito web, e nella parte invece di tutto il resto del mondo. I social media hanno una parte importante perché gli utenti parlano di me online, di me e della mia azienda online, indipendentemente dal fatto se io consenta loro di parlarne nella mia pagina Facebook o meno. Diciamo che l'utente è invogliato, se proprio si trova a dover affrontare un problema, a parlarne prima sugli strumenti che io do a disposizione. Quindi sono una parte di quella area del customer care che oggi prende il nome di social CRM, cioè il Customer Relationship Management, fatta con i mezzi social. Social media. È interessante. Una serie di professionalità e direi un'azienda che fino a qualche anno fa non poteva nemmeno esistere, non poteva nemmeno essere pensata. In realtà si parla di reputazione nel web già da prima, il concetto è di circa del 2004, e noi nel 2004, all'epoca come libero professionista e come ditta individuale, gestivo tutta la parte dei diritti di proprietà intellettuale, quindi recuperare dove alcuni contenuti erano stati messi in modo magari fraudolento dagli utenti e la rimozione. Certo, l'avvento così pesante dei social media nella vita di tutti i giorni, basta vedere nell'ultimo mese, negli ultimi 2 mesi, l'accesso dei VIP alla piattaforma di Twitter, con tutta una serie di indotto, ovviamente facilita questo tipo di lavoro e crea nuove professionalità. Noi abbiamo dei ragazzi che si occupano in qualità di analisti e analisti, quindi analisti di proprietà online e di moderatori, che probabilmente fino a qualche anno fa non avevano ragion d'essere. Sì, esatto. A proposito di professionisti, professionalità, le cose che voi fate, poi facciamo anche degli esempi per farci capire meglio, le cose che voi fate le fate quasi esclusivamente a mano, cioè siete degli artigiani, o esistono dei software che vanno in giro per la rete a capire ad esempio che cosa sta dicendo la gente di un tal prodotto, che ne so, di una trasmissione radiofonica che c'è il sabato pomeriggio? The Fool è una società di tecnologia, non di servizi, quindi noi nasciamo per creare, e li abbiamo creati, tecnologie che abilitano a questo tipo di problematica. Quindi sì, è fatto principalmente utilizzando piattaforme tecnologiche che noi utilizziamo internamente e che rivendiamo, E poi ovviamente delle professionalità al servizio di quei nostri clienti che non vogliono la sola piattaforma tecnologica, ma che hanno anche bisogno di supporto. È chiaro che la buona parte del lavoro viene fatto da sistemi automatici, da sistemi esperti, mentre invece un tocco finale è sempre necessario da un punto di vista anche solo interpretativo. È facile capire come attualmente non esistano sistemi di gestione, ad esempio, della reputazione che possano capire un sentiment positivo o negativo e comprendere a fondo delle frasi che magari sono ironiche piuttosto che delle frasi che sono beffarde. Sì, beffarde. Ah, avevo capito un termine inglese, perché questo è uno dei problemi. Allora, nel tuo mestiere, ma direi insomma nel mestiere che fanno quasi tutti gli ospiti di 2024, c'è una quantità di parole inglesi, e questo lo dico perché spesso gli ascoltatori ci tirano le orecchie perché citiamo troppo spesso parole in inglese. Questo effettivamente è un problema anche quando tu parli con i tuoi clienti. Che ne so, tu vai in una banca e questi magari non capiscono quello che tu stai dicendo. Sì, diciamo che noi abbiamo un breve vademecum di cosa noi utilizziamo come termini. Sono in realtà delle precisazioni, è come un vocabolario tecnico medico o un vocabolario tecnico legale. Esistono dei sostantivi che non vengono tradotti in lingua italiana perché non hanno un omologo. Quindi diciamo che anche solo per pigrizia lessicale si tende a utilizzare una parola molto breve inglese che in realtà definisce un concetto molto più ampio in italiano. Basti vedere social CRM. Che cos'è il social CRM? È la gestione del cliente e del processo di gestione clienti fatta attraverso strumenti di social media. E anche lì ci ritroviamo di nuovo in una ridefinizione di social media. Che cos'è il social media? I social network. Non esistono termini per ora. Probabilmente nei prossimi anni nasceranno o ci adatteremo alla lingua inglese. È più probabile che ci adatteremo. Senti, mi fai un esempio di una cosa che voi fate, che ne so, personaggio dello spettacolo o personaggio dello sport. Ha una pagina su Facebook oppure su un altro social network, poi ti chiedo anche un parere sugli altri social network. Allora, immagino che il personaggio in sé ci vada poco, in realtà faccia poco. Non è detto, molti personaggi, sempre di più i personaggi sono molto attivi. Ovviamente non riesce magari, gestiamo pagine con svariati milioni di fan. In questo caso è ovvio che la persona non riesca a seguire uno a uno tutte le varie problematiche. Quindi che cosa succede? Succede che un team si affianca ai suoi responsabili di comunicazione e riesce a dare informazioni di un certo tipo. Riesce in prima analisi anche solo a rimuovere tutte quelle, diciamo, espressioni colorite che gli utenti possono andare a fare. Le parolacce e le offese. Parolacce e offese, più che altro diffamazione verso terzi, che è quello che dà un po' più di problemi. Riescono a sorvegliare tutta una serie di episodi che possono succedere. Abbiamo avuto pagine di clienti su cui altri utenti hanno mandato link a malware per ovviamente riuscire a diffonderlo. Abbiamo avuto sfortunatamente dei casi in cui sono stati pubblicati link a contenuti pedopornografici piuttosto che a materiale coperto da diritto d'autore. Tutti questi vengono ovviamente filtrati, ma è solo la prima parte, non la più importante. La più importante è, a valle di questo, siamo in grado di classificare gli utenti e le espressioni degli utenti in positive, negative e neutre e dividere dei temi. Quindi possiamo dire che in questo mese tot utenti hanno parlato bene o male di questo o di quest'altro evento a cui magari il VIP ha partecipato, o nel caso di aziende di questo o di quest'altro prodotto. Siamo in grado di dire quali sono state le criticità e che quindi un tot numero di utenti sono stati critici verso questo prodotto per questo motivo, e anche alla rovescia dire chi sono ad esempio i top 100 utenti che contribuiscono in maniera positiva o i nostri invece utenti un po' più critici. Questo fa in modo che se un utente viene classificato come critico, sappiamo già magari che quell'utente è importante seguirlo con un occhio di riguardo, perché magari proviene da una storia di criticità importante. Il fatto di riuscire a dargli un supporto più dedicato alle sue esigenze significa magari riuscire ad avere da un utente particolarmente critico un utente invece particolarmente fan del mio marchio. A questo punto uno potrebbe dire, ah, io divento critico così mi contattano subito. Fermati un attimo, adesso c'è la viabilità, le notizie che arrivano da strada e autostrada. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta, 800 24 0024, gli sms al 349 238 6666. 2024. Questa è una puntata dedicata ai retroscena dei social network, almeno ad alcuni, perché naturalmente una buona parte dei retroscena riguardano le aziende direttamente, ma ci sono una serie di altre società e altri professionisti che hanno oramai da tempo, ma questo è un business e una serie di professionalità che si sta sviluppando in questi ultimi anni, si sono strutturate per fornire consulenza a chi vuole entrare in modo professionale sui social network. O un personaggio, un politico, anche un professionista, Matteo, che ne so, un avvocato oppure un dentista in una zona potrebbe essere oggetto di critiche sui social network. Cioè, uno dei concetti che io ho capito, mi sembra di aver capito, è che tanto la gente parla di noi, se abbiamo un interesse a tutelare questa o come dire, a controllare questa discussione, meglio rivolgersi a professionisti. Sì, più che altro a notare che esistono conversazioni che ci riguardano. Spesso non si ha la possibilità di seguire senza adeguata tecnologia come la nostra, ma come quella di tanti altri gruppi internazionali, di seguire tutte le conversazioni che ci riguardano. E quindi si perdono opportunità, in tutti i due modi, diciamo, opportunità di poter intervenire in una conversazione per magari chiarire dei dubbi o per specificare determinati tipi di comportamento, o anche solo opportunità di poter proporre i propri prodotti e servizi in un contesto in cui si parla di noi. E sono cose, diciamo, che sono realtà importanti nel web, perché spesso le aziende hanno un costante bisogno di feedback, hanno bisogno di sapere gli utenti cosa pensano dei loro prodotti, e non pensano che invece che pagare gruppi di discussione, panel di utenti per avere un feedback, possono avere lo stesso tipo di feedback online, perché già gli utenti probabilmente della rete stanno parlando di loro. Senti, un parere sui social network. A parte Facebook, che è molto popolato, ricordiamo che ci sono, tu ci credi ai numeri che vengono dati, cioè 12-13 milioni di persone online tutti i giorni in Italia. Secondo me è una stima attendibile, magari non precisissima, forse un filo ottimistica, ma attendibile. Perfetto, quindi diciamo che poi naturalmente pagina per pagina ci sono alcuni casi in cui ci sono milioni di utenti, di fan, però diciamo la popolazione è comunque una popolazione interessante. Altre cose interessanti, perché ad esempio Twitter, molti ne parlano, e temo che molti ne parlano perché molti giornalisti sono su Twitter, quindi ognuno poi parla di cose che riguardano un ambito molto ristretto, però stiamo parlando ancora di numeri piccoli. Twitter è una comunità più ridotta, anche se si sta ampliando molto velocemente, però è una realtà molto specifica e molto, diciamo, importante da presidiare, perché normalmente abbiamo opinioni informate o personaggi che nell'ambito del web hanno comunque una importante influenza all'interno della rete. Buona parte degli influencer italiani della rete si ritrova in Twitter a discutere, quindi è di sicuro un qualcosa che va presidiato. Diciamo che in altri stati Twitter ha avuto una possibilità ampissima di crescere, e negli Stati Uniti ad esempio rappresenta una fonte importante di opinioni. Ciononostante molte aziende italiane, anche le telefoniche, si stanno attrezzando a dare supporto ad esempio via Twitter, quindi probabilmente la quantità di utenti è sì limitata, ma non così limitata da non, diventare importante da un punto di vista economico. Senti, altri social network? Altri social network sono minori. Diciamo che vi sono i social network professionali, LinkedIn in primis, perché forniscono invece della strutturazione molto più verticale rispetto alla mia professione. E poi vi sono tutti i social. Voi lavorate su LinkedIn? Noi lavoriamo anche su LinkedIn, ovviamente. La piattaforma è fatta per gestire più contenuti di vari social media. E poi ci sono i vari social network che i vari clienti creano, quindi i social network branded, quindi le community legate a un singolo prodotto o un servizio, che sono estremamente importanti, perché ovviamente verticalizzano tutta quella che è la concentrazione. Senti, perché un'azienda, tu hai detto che lavori con delle banche ad esempio, ma insomma in generale, dovrebbe andare su Facebook, portando quindi oltre che una serie di utenti anche la discussione su un altro luogo che invece potrebbe essere il proprio sito internet? Invece io, azienda, porto utenti e porto discussione su un altro media, che poi fa business perché vende la pubblicità, eccetera, eccetera. Di sicuro per l'opportunità e per la facilità con cui l'utente si ritrova nell'interagire con degli strumenti che gli tornano congeniali. L'utente è già su Facebook, l'utente si aspetta questo tipo di supporto. E poi perché è sempre importante per un'azienda il fatto di approcciare dei social network in cui è facile l'engagement, come viene detto, cioè è facile che l'utente venga coinvolto, perché comunque l'utente su quella piattaforma parlerà di lui. Cioè, l'utente parlerà dei suoi problemi, parlerà delle problematiche che ha riscontrato, indipendentemente che il marchio lo voglia o meno. A questo punto forse è più opportuno focalizzare le conversazioni rispetto al brand o rispetto alla società all'interno di un'area dedicata, come può essere quella di una fan page. Senti, un ascoltatore, perché le cose che stiamo dicendo non so quanto ancora chiare siano al grande pubblico, ma anche alla maggior parte delle aziende, perché stiamo parlando effettivamente di un nuovo ambiente di lavoro. Assolutamente. Anche se tu dicevi ma già dal 2004, eccetera, eccetera. Allora, il nostro ascoltatore, ad esempio, via SMS dice: se ho capito bene, questo signore fa quello che fa Google Alert, cioè che dice, semplificando molto, eh? Assolutamente. E questo? È proprio quello. In realtà, Google Alert. Google Alert è un servizio fornito da Google dove è possibile segnalare un numero di parole chiave particolari, e ogni volta che all'interno del web viene pubblicato qualcosa che riguardi quelle parole, avere una mail che ci avvisa del fatto che qualcuno ha detto quel tipo di parole. Mettiamola così, esistono realtà in cui il Google Alert sarebbero parecchie centinaia, se non migliaia di conversazioni al giorno. Quindi non basta il fatto di sapere che qualcuno ha menzionato un determinato tipo di parola. È necessario capire, ad esempio, se la parola era legata al mio brand o meno. Cioè, se si stava dicendo nell'ambito della banca esistono le banche XYZ, quindi io essendo X non mi interessa particolarmente, o se sta parlando veramente di noi, se sta parlando in maniera positiva o negativa, se è la prima volta che ne parla o se ne ha già parlato, se l'utente è un utente particolarmente negativo anche all'interno di altre realtà o se è particolarmente positivo, e che grado di rischio può avere questo tipo di conversazione rispetto al mio brand. È ovvio che per il piccolo professionista Google Alert è un ottimo strumento. Sì. Come anche altri siti web, cioè Social Mention, ad esempio, scritto socialmention.com, dà un servizio simile. Per il piccolo è assolutamente un servizio eccellente. Quando le dimensioni iniziano a essere un po' più alte e serve un supporto, allora entrano in gioco realtà come la nostra. Certo, certo. Volevo farti una domanda sulla che coinvolge anche i temi più legati alla privacy, visto che quando si parla di social network alcuni utenti, non tutti, si cominciano a preoccupare della privacy. Penso che abbia ragione anche Rosa del Centralino, che dice: ma se tu vai su Facebook te ne devi fregare, cioè nel senso da questo momento ti metti un po' in piazza, magari anche un po' svestito. Tu non sei d'accordo, ma infatti adesso mi spieghi. Però in generale volevo capire: più cose io metto a disposizione di questi social media, quindi informazioni, fotografie, discussioni, più voi siete contenti, perché diciamo tutte le analisi che voi fate sono più precise. Cioè, se io tutti i giorni dico mi piace la tal cioccolata o mi piace quel programma televisivo, voi avete più informazioni sulle quali basarvi. Assolutamente sì, diciamo che ogni volta che io dico qualcosa di me online sto vendendo un pezzetto di anima, se proprio la vogliamo mettere nel livello per paranoico. Molto, sì. Perché? Perché in realtà sto dando informazioni su di me. È vero che devo essere conscio del fatto che la mia partecipazione a un qualunque social network, come il mio utilizzo di qualunque servizio web, dà informazioni al web stesso. C'è questo detto famoso che dice che se io non sono... diciamo che se io non pago per un servizio non sono il cliente, sono la merce in vendita, che è assolutamente corretto. D'altra parte esiste una tutela di base, una tutela minima che la legge impone a determinati tipi di network per determinati tipi di problematiche, e dove la legge impone determinati tipi di tutele per il cittadino comune che magari non è in grado da solo di capire determinati tipi di problematiche, lì è giusto che i vari social network si adeguino a quella che è la legge vigente nello stato in cui operano. Tu sei d'accordo con quelli che sono preoccupati? Bisogna un po' preoccuparsi. Ma io sono paranoico per definizione, il mio background è quello della sicurezza informatica e dell'hacking, quindi per noi paranoia is a virtue, la paranoia è una virtù, ma salvo quello io sono un utilizzatore anche abbastanza estensivo dei social network. Facendo che cosa? Facendo attenzione semplicemente al fatto che devo essere ben conscio che i dati che io rilascio sono dati che sono, diventano di pubblico dominio e che sarà probabilmente impossibile rimuovere dal web una volta introdotti nella rete. Sì. E soprattutto impossibile anche sul lungo periodo, quindi dopo 10 anni queste cose rimangono. Forse bisognerebbe avere un po' di attenzione più sui giovani, sui bambini. I genitori sì, dovrebbero sono problematiche importanti anche nell'ottica sempre più diffusa del futuro datore di lavoro o del responsabile della HR che comunque utilizza sempre più spesso i social network per capire qualcosa in più rispetto all'orientamento di quella persona e o della sua vita privata. Dobbiamo capire che nel momento in cui noi distribuiamo fotografie compromettenti che ci riguardano, può darsi che finiscano nelle mani sbagliate. Ci risentiamo tra qualche minuto. Il nostro numero verde per chiamarci in diretta 800 24 0024, se volete anche su Facebook, tra poco leggiamo qualche commento, oppure gli SMS 349 238 6666. A tra poco. 2024. L'ultima parte di 2024, a proposito di cose strane, prima non vi ho letto una notizia, che è una notizia, diciamo, sulla quale sorridere di questa settimana, a proposito di hacking, la pratica di scaricare film e musica illegalmente in Svezia accadono su internet cose un po' strane, è diventata, pensate, una religione riconosciuta. Il copimismo è stato infatti ufficialmente registrato dopo una battaglia durata 2 anni. È divertente perché questa è una di quelle cose che poi si vanno a raccontare come aneddoti, che allora l'idea di formalizzare in una vera e propria religione, un culto, questa pratica del copia e incolla su internet è venuta ad uno studente di filosofia, e tra i simboli della neonata chiesa, insomma chiesa si fa per dire, insomma, ci sono naturalmente Ctrl-C, Ctrl-V, copia e incolla. Matteo Flora, che è fondatore di The Fool, tu, a proposito di gente che copia e incolla su internet, ti occupi anche di questo, cioè vai in giro per la rete, insomma non tu, i vostri software, le vostre persone. Ah scusa Parenzi, fatti i turni anche di notte? Assolutamente sì, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Come Radio 24, beh no, di notte no, tutto registrato. Quindi ci sono anche persone, insomma, che si occupano di questo mestiere tutta la notte. Assolutamente sì, in telelavoro. Poi parliamo anche di questo, però fammi capire che cosa accade in rete a proposito di copia e incolla, cioè io prendo qualche cosa su internet e molti credono che si possa pubblicare senza problemi. Sì, credono e o lo fanno, diciamo, o lo sanno, con lo sanno. Mutate necessità. Comunque sì, spesso la realtà dello user generated content, che nasce come contenuto generato dall'utente, quindi di proprietà sua, si confonde con contenuti in realtà di pregio, quindi contenuti editoriali creati da qualcun altro che vengono diffusi. In questo caso buona parte dei nostri software si occupa della individuazione e segnalazione di questo tipo di contenuti all'interno dei più famosi portali video al mondo. Ce ne sono più di 200 attivi e significativi in questo momento online per la rimozione. Dicendo che ci sono contenuti. 200 siti come YouTube? Non con la stessa probabilmente quota di mercato, però no, certo. Sì, i più determinanti a livello di rete sono circa una ventina che di per sé recuperano quasi l'80% del traffico, ma il numero è significativo di realtà. Che pensa che io mi ero fermato a YouTube, a Vimeo e a non so cos'altro. Beh, ve ne sono a decine, diciamo che quelli un po' più problematici possono configurarsi nel grande gigante di Mega Video, ad esempio, e Mega Upload, dove sì, certo. Spesso esistono, diciamo, difficoltà nel ritrovare contenuti UGC reali. Ed è facile trovare questi contenuti e poi... Grazie al cielo, facile. No, grazie al cielo, perché così almeno noi continuiamo a fatturare. Però certo. Diciamo che non è semplice, perché non sempre si riguarda solo una parola chiave in definizione. Bisogna recuperare contenuti, bisogna scovare dove questi si nascondono e anche segnalare al cliente dove sono le realtà problematiche, perché spesso può sfociare tutta questa segnalazione anche in cause civili o penali. Anche perché se io illegalmente, in modo illecito, pubblico un contenuto che è coperto dal diritto d'autore, tu te ne accorgi, non è che automaticamente lo puoi togliere dalla rete, devi fare una segnalazione al gestore del sito internet oppure a me e lo pubblicare. Esistono realtà con cui noi abbiamo già accordi prestabiliti, per cui ovviamente ci assumiamo noi la responsabilità di dichiarare che quello è un contenuto illecito e possiamo rimuoverlo quasi in tempo reale. Esistono realtà che rispondono con indirizzi mail dedicati o form online dedicati per la segnalazione. Esistono realtà in cui esistono altri tipi di segnalazione secondo quello che è normalmente il DMCA, il Digital Millennium Copyright Act americano, che prevede un determinato tipo di passi per rimuovere questo contenuto. Massimo dalla provincia di Bologna. Buongiorno Massimo. Buongiorno, salve. Prego. Un passo indietro, volevo chiedere, diciamo così, se le aziende italiane hanno, diciamo, una gestione, un controllo del web, nell'esperienza di chi ci parla, quindi del web, dei social network, dei blog, eccetera, finalizzato alla gestione delle relazioni con le istituzioni. Mi spiego meglio. Tutte quelle aziende che operano nei settori regolati, l'energia, l'ambiente, le opere pubbliche, eccetera, hanno molto bisogno, in generale hanno a che fare quotidianamente con temi che riguardano le istituzioni, la politica, la pubblica amministrazione. Volevo capire se in Italia c'è una tendenza, e si è messa a dare qualche riscontro in questo senso, delle aziende a gestire appunto il web in chiave delle relazioni istituzionali. Su cosa si concentra questa gestione, se c'è, se solo sulla reputation aziendale, oppure se seguono singoli progetti o singoli prodotti, e anche se l'esito di questo tipo di controllo viene poi utilizzato in senso strumentale, anche in senso buono, però diciamo nei confronti delle istituzioni. Non so se la domanda è chiara. Massimo, la domanda è ottima e chiara. Lei ha detto all'inizio un passo indietro, direi che invece ha fatto un passo in avanti, perché secondo me stiamo parlando di cose che non so quanto le aziende siano già aggiornate nel fare. Grazie comunque per la domanda e grazie per l'attenzione. Matteo. Diciamo che in Italia soprattutto il mercato della reputation è più o meno consolidato nei grandi, ma ancora ha da divenire importante all'interno delle piccole realtà. Non ho io esperienza diretta, noi come società, di un utilizzo di questo tipo. Di sicuro vi sono realtà che approcciano la parte della reputazione rispetto a problemi invece regolamentatori. Beh, ad esempio, la valutazione della reputation online è importantissima al fine di tutelare quelli che vengono definiti normalmente gli intangible asset, come ad esempio asset intangibili. Esatto, gli asset intangibili, che sono ad esempio la reputazione, il marchio, cose che è difficile valorizzare economicamente ma che devono essere tutelate. Devono essere tutelate anche perché per Basilea 3, il Pillar 2, il fatto di controllare questo tipo di le problematiche soprattutto legate agli asset intangibili è necessario in un approccio di controllo a largo campo. In questo caso sì, esistono realtà in cui la comunicazione istituzionale si occupa della supervisione da questo punto di vista. Non esistono nella mia esperienza realtà che lo facciano al fine proprio di orientarsi verso il regolatore. Esistono timide invece utilizzi da parte del regolatore, delle forze dell'ordine, per mappare determinati tipi di fenomeno online. Dunque, Christian Esser, che è stato anche ospite a 2024 ed è un esperto di social media che lavora in Olanda, dove il mercato è molto sviluppato, ci fa una serie di domande su Facebook. Una è una considerazione più che una domanda. Dice: in Olanda se hai un problema con una telecom, quindi una società di telecomunicazione, te lo risolvono in modo più celere se li contatti via Twitter, appunto perché hanno team di social care che reagiscono direttamente su Twitter. Però fa una domanda che è interessante. Allora, la scalabilità di questi servizi, cioè se nel futuro invece che essere un milione di persone che segue una marca di yogurt, una marca di sport, di scarpe sportive, eccetera, eccetera, cominciano a essere 10 milioni le persone che sono su Facebook, quindi fanno domande, chiedono, partecipano alla discussione. Questo si risolve semplicemente aumentando le persone che lavorano per te e aumentando i fatturati, naturalmente, o c'è un problema ulteriore? Spesso ci troviamo a parlare di scalabilità della soluzione. In realtà la scalabilità è un non problema, se ci pensiamo. Anche perché in realtà questo tipo di servizio viene già erogato a tutti gli utenti in forma telefonica. Parliamo proprio delle telefoniche. Tutti gli utenti sono autorizzati a chiamare telefonicamente il proprio operatore e a chiedere informazioni. Questo non è un problema di scalabilità, è nella parte di gestione del business dell'operatore stesso. Se ci si sposta da quello che è il telefono tradizionale a Twitter, in realtà è più semplice gestire il problema di caring attraverso social media, e probabilmente vedremo nei prossimi anni via via sparire il supporto telefonico, un po' come è successo con il supporto tramite lettera, che ancora molti di noi si ricordano, del customer care, dove se vi era un problema bastava mandare una lettera alla casella postale numero qualcosa. Mano a mano nel tempo ci si è spostati al telefono, ci si sposterà quindi verso i social media. Problema. Assolutamente no. Dunque, Vittorio da Treviso, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prego. Ascolti, volevo un'informazione. Le aziende, quali per esempio la società che oggi ospita The Fool da voi, si occupano esclusivamente del monitoraggio o anche di azioni quali, anche azioni che vengono già fatte oggi dai social network come network, ma in maniera più organizzata, quali tipo azioni di promozioni o di pull, quindi attirare nuovi utenti o di spiegare agli utenti determinate informazioni con dei software e dei pool o dei servizi che per esempio The Fool offre. Grazie. Quindi Vittorio, se ho capito bene, tu dici vi occupate solo di guardare la situazione, raccontare che cosa accade, oppure invece fate un po' di movimento, quindi intervenite nella discussione, la guidate anche, giusto? The Fool è in grado di fare... Ho capito bene, Vittorio? Giusto. Perfetto, perfetto. Adesso Matteo. Nel nostro campo The Fool si occupa di ambedue le problematiche, diciamo che sono molto molto molto separate tra di loro. In un lato parliamo di social CRM, parliamo di e-moderation e reputation. L'altra parte, cioè quella dell'engagement, della collaboratività, del parlare, del disquisire con gli utenti, prende il nome normale di digital PR, quindi PR su digitale, ed esistono ad esempio agenzie specializzate nella sola ed esclusiva digital PR. Sì, sì. Quindi sono due temi differenti. Ok, quindi voi fate altro. Facciamo anche digital PR per alcuni clienti, però ci concentriamo sulla parte invece di intelligence, di analisi e di reporting. Ok, apro una parentesi e mi piace dire che noi oggi stiamo parlando di un trend che sta accadendo, che sta crescendo, ed è importante sapere che ci sono queste cose, perché queste cose stanno creando decine, centinaia, migliaia, siamo ancora in queste dimensioni, di posti di lavoro, e probabilmente anche nei prossimi anni nasceranno delle società. Naturalmente non c'è solo The Fool che si occupa di questa cosa, cioè, però in Italia, Matteo, stiamo parlando ancora di poche decine di aziende, o molte decine. Diciamo che stiamo parlando di qualche decina di aziende che si occupa di digital PR, molte meno secondo me, molto meno di 10 che si occupa invece di intelligence vera e propria sul web. Ecco. Tu fino adesso non hai citato, una parte della business intelligence, questo è un tema che mi piace molto, e per farci capire, la business intelligence è una serie complessa, ma che dà risultati estremamente interessanti, di azioni che sostanzialmente prevede l'analisi di dati che sono spesso a disposizione delle aziende per capire che cosa sta succedendo. Io ho un taccuino dove segno quando faccio carburante, quando spendo, quanti chilometri ho fatto il giorno in cui faccio rifornimenti, cioè alla fine dell'anno, se me lo ricordo, per il 2011 lo devo ancora fare, faccio la somma e cerco di capire qualche cosa. È un modo molto rudimentale per fare business intelligence, per capire che cosa ho fatto durante l'anno. Se questa cosa la fanno le aziende, possono scoprire cose molto interessanti. La business intelligence fatta sui social network, che cosa ci fa capire? Facci comprendere che tipo di risultati posso avere. Posso capire, ad esempio, qual è stata l'adozione di un servizio piuttosto che l'adozione di un prodotto da parte degli utenti, perché ne parlano. Posso capire l'indice di gradimento di qualunque dei miei prodotti, o l'indice di gradimento ancora più importante di qualunque tipo di azione di marketing che io ho avuto, cercando di calcolare addirittura una sorta di ROI, ritorno dell'investimento, dietro alle azioni di marketing che io ho fatto. Come? Abbiamo dei clienti che ci chiedono dopo un qualunque tipo di azione di marketing, può essere dopo un comunicato radio, uno spot televisivo o un'affissione, di dire quanto e come e dove se ne è parlato all'interno dei social media, all'interno dei social network, all'interno di siti specializzati o dei forum specializzati o meno. In questo modo io, paragonando le varie azioni di marketing che vado a fare, posso capire quale è quella che mi ha dato maggiore riscontro verso una popolazione, quella della rete, ormai assolutamente interessante, piuttosto che posso vedere come si sono diffusi problematiche di supporto o problematiche di reputazione, come può essere una brutta notizia in borsa legata a qualunque tipo di shock finanziario o di indagine di polizia, piuttosto che vedere ad esempio nella supply chain a livello locale dove vi sono problemi per quanto riguarda la ricambistica con un nostro cliente, dove vi sono problemi di approvvigionamento rispetto a un prodotto e un servizio, e capire che all'interno del nord Italia gli utenti si lamentano particolarmente perché non riescono a trovare un prodotto, che è nel centro Italia, nel sud o in Costa Rica è invece facile e facilmente disponibile. Dunque ci hanno tirato le orecchie perché non abbiamo citato Google Plus. Ti piace, lo usi? Google Plus, noi gestiamo anche plugin per Google Plus. In realtà è il new kid on the block, il nuovo ragazzino sulla frontiera, che attualmente ha un mucchio di utenti che ci registrano, ma ancora non si è capito se si registrano perché è necessario esserci, esatto. O se effettivamente lo utilizzano. Sarà sicuramente da tenere d'occhio nei prossimi anni. Benissimo, infatti io mi sono registrato, però sono alla finestra effettivamente. Adesso abbiamo le informazioni che arrivano da Strade e Autostrade e poi sentiamo Gianluca che ci ha telefonato da Milano. A tra poco. 2024. Riprendiamo ultima parte di 2024 alle 16:46 minuti. Vi ricordo che la prossima settimana daremo ampia copertura del Consumer Electronics Show che si apre martedì a Las Vegas in Nevada. Avremo persone che per tutta la settimana parleranno con gli addetti ai lavori, visiteranno i padiglioni della fiera e quindi ci racconteranno quali sono i trend, i mega trend più interessanti nel mondo dell'elettronica di consumo. Saluto Gianluca che ci chiama da Milano. Buongiorno Gianluca, benvenuto. Buongiorno a voi. Prego, ti ascoltiamo. Ma sono molto curioso su quello che è l'attuale stato di utilizzo di social network da parte di istituzioni finanziarie, in particolare banche, in Italia. Suppongo che siamo un po' indietro magari rispetto ad altri paesi, quindi quali sono i trend attualmente in atto, le due o tre idee che magari possono cambiare molto il rapporto con il cliente. Benissimo, grazie Gianluca. Però una domanda, Gianluca, ci sei ancora? Sì. Sì. La domanda è perché sei appassionato oppure lavori nel settore? No, perché lavoro in banca, non so se essere preoccupato o meno. Mi interessava molto il team del social caring in sostituzione dei call center, per esempio, quindi sì, da lì è nata la domanda. Interessante, quindi dice lavoro nel settore, però nel settore bancario, non nel settore tecnologico. Grazie Gianluca e buon ascolto, grazie per aver chiamato e grazie anche a tutti gli altri ascoltatori che ci hanno chiamato, ma che per vari motivi o perché non c'era proprio la domanda azzeccata al tema oppure perché non abbiamo tempo non andranno in onda. Matteo Flora. Senza fare pubblicità a un istituto bancario piuttosto che un altro, anche perché due di questi sono nostri clienti. Chiama la banca Pagliarini. Esistono, dall'anno scorso le banche si sono affacciate prima timidamente, poi un po' più in maniera seria rispetto al social caring e alla pagina di social media. Diciamo che normalmente le banche approcciano il web e Facebook in generale principalmente per azioni di di corporate social responsibility, quindi tutte le varie spiegaci meglio. CSR sono le iniziative che la banca sponsorizza a livello di sponsorizzazioni piuttosto che per visibilità, piuttosto che in realtà. Cioè diciamo utilizzano i social network per dire abbiamo donato tot soldi per comprare la Croce Rossa. Piuttosto che siamo gold sponsor di questa attività sportiva e seguiremo con voi questo tipo di competizione piuttosto che dando informazioni interne. Però il social caring è importante. Ecco, che evoluzione tu vedi? Perché già si è evoluta verso il social caring, quindi in una realtà di customer care legato ai social media. Ovviamente con tutte le difficoltà del caso, ad esempio non si può parlare in maniera pubblica con un utente di situazioni che riguardano le sue finanze, quindi molto spesso la conversazione poi si sposta in una conversazione privata e non viene sicuramente fatta nel wall di nella bacheca di Facebook. Sì, sì, sì. Però esistono già prassi consolidate di altri stati e in Italia ci si sta buttando molto pesantemente sul sul tema, anche perché effettivamente è un sistema comodo e veloce ed innovativo. Esistono banche che poco tempo fa hanno fatto ad esempio l'applicazione Android con telefonate VoIP, quindi il bancario è una realtà estremamente vicina al social care. Ma tu pensi che in futuro, non voglio dire che una persona aprirà il conto bancario frutto di una chiacchierata su Facebook con una persona della banca, però che ci possa essere appunto un rapporto così convincente con la banca su un social network? Beh, tutte le banche ultimamente si stanno muovendo verso il cliente. Basti vedere le banche di nuova generazione, senza fare nomi, che hanno creato sportelli molto più vicini al cliente. Basta vedere il fatto che ad esempio spesso ci si siede adesso a fianco all'operatore, quindi vi è una relazione quasi personale con il singolo correntista, che è quello che poi viene determinato dall'utilizzo ad esempio dei social media. In quel caso la comunicazione è molto personale. Io non mi sorprenderei se da qui a qualche anno un utente preferisse aprire un conto corrente nell'istituto A piuttosto che nell'istituto B, perché sa che il social caring di questo istituto, che è davanti ai suoi occhi tutti i giorni perché vede la pagina Facebook, è migliore che non quello dell'istituto B. A proposito di nuove professioni e di cose nuove che capitano grazie o a causa, dipende dai punti di vista, all'evoluzione della rete, un nostro ascoltatore Carlo, che ci invia un SMS, dice: lavoro come animatore umorista della pagina Facebook di un'associazione di dentisti. Perché no? L'animazione di una pagina è importante, perché comunque sia mantiene viva la conversazione anche in momenti in cui magari non ci sono esigenze del singolo cliente di doversi interfacciare, e quindi è assolutamente importante. Ha portato un mucchio di persone a divenire content manager per quanto riguarda magari anche solo la parte di Facebook. Gestore dei contenuti. Senti, questi servizi, adesso non voglio che tu ci racconti il listino prezzi, però sono costosi e quindi possono essere utilizzati solo da grandi aziende, o cominciano, tu vedi che questa possa essere un'evoluzione anche per piccoli professionisti, per persone che insomma non hanno disponibilità economiche elevatissime? Beh, dipende ovviamente dall'approfondimento che viene richiesto rispetto a determinati temi. Un report di base è avvicinabile tranquillamente anche da un'azienda piccola o molto piccola, anche un'azienda familiare. Ovviamente il supporto di analisti per quanto riguarda anche poi la parte di definizione di una strategia è ovviamente più importante. Poi dipende anche molto da quanto se ne parla di una certa tipo di realtà, ed è proporzionale in genere, perché in genere delle enormi realtà si parla con migliaia, a volte decine di migliaia di conversazioni al giorno. Per la piccola realtà ovviamente questa... Senti, dalla vostra esperienza, visto che sui social media, su Facebook eccetera, c'è anche gente che bara, che non dice la verità, né relativamente alla propria identità, quindi dice che si chiama Pierino invece si chiama Paolo, o addirittura Paola invece si chiama Giuseppe. Allora, quanto si può barare e quanto voi riuscite a capire che qualcuno sta barando? Perché ad esempio Facebook dice: noi siamo bravi, ogni tanto becchiamo, cioè riusciamo a capire le persone che stanno barando e quindi cerchiamo di ridurre questo fenomeno. Diciamo che il barare è sempre possibile, esistono algoritmi che cercano, esiste anche una profilazione dell'utente. Dopo un po' che l'utente parla all'interno delle bacheche, il nostro sistema si accorge del fatto che qualcosa non torna, anche perché molti suoi contenuti magari vengono segnalati, rimossi o interpretati correttamente o non correttamente dal sistema. È chiaro che il problema dell'identità online invece è tutt'altro tipo di problematica, quindi l'identità non è mai certificata su Facebook, tant'è che, come dicevo, per temi piuttosto impegnativi o riservati la comunicazione si sposta da un canale pubblico a un canale privato, anche per avere gli accertamenti dell'identità del singolo. Facciamo l'esempio proprio del correntista bancario, dove ovviamente non basta certo l'omonimia su Facebook per determinare la possibilità di entrare nei dati d'utente. Luca su Facebook ci dice: peccato che i content manager spesso, cioè quelli che si occupano del contenuto su queste pagine, spesso sono ragazzini sottopagati che non sanno con perizia di che cosa stanno parlando, che cosa stanno facendo. Questo è effettivamente un problema, ma questo penso che sia un problema della internet in generale in Italia che viene... Ma non solo di internet, sembrerebbe l'abbassamento delle competenze nella parte editoriale non è limitato al solo internet, ci dicono almeno così le statistiche. Certo, ancora una volta in realtà l'effetto che viene creato e quindi il risultato delle azioni molto spesso sbugiarda i Senti, non tu hai detto io ho, cioè noi a The Fool abbiamo 30 persone che lavorano nel team. Che tipo di background hanno devono avere? Perché è molto eterogeneo. No, anche perché immagino che nei prossimi anni questa sia una professione, possa essere una professione per un numero maggiore di persone. Oggi magari parliamo di alcune migliaia di persone che fanno questo lavoro, ma che cosa uno deve sapere? Il profilo tipo è un laureato in genere di primo livello, non ha un master. Ed è legato a materie umanistiche o comunicazione. Abbiamo anche dei ragazzi che sono laureati, credo, in scienze politiche. Esistono e stanno nascendo corsi specifici per la gestione del contenuto online, quindi multimedia and content management online. Sempre più spesso la cosa che è importante è un'esperienza sul campo rispetto a questo tipo di tematiche, legate a un background di base che consentano un utilizzo proprio di quelli che sono gli strumenti di comunicazione. Leggo un SMS di Fabio di Garner che dice: è tutto molto in fase embrionale in Italia e soprattutto nelle mani delle organizzazioni di marketing e non dell'ICT. Capisco bene la prima parte, meno la seconda, però tu la capisci e mi rispondi. Sicuramente è tutto in fase embrionale, anche per questo ne parliamo e stiamo raccontando di un trend che sta accadendo, qualcosa che sta cambiando. In Italia è embrionale, nel resto del mondo si sta già consolidando. È vero, come dice l'ascoltatore, che sempre più spesso ci troviamo come competitor diretti delle realtà che in realtà arrivano dalla comunicazione e dal marketing. Quella è forse la principale differenza tra noi e i nostri competitor. Noi, al contrario, partiamo dalla tecnologia. Noi siamo una società tecnologica nata da questo tipo di background. Ti faccio un'ultima domanda. Visto che gli strumenti sui quali voi lavorate sono strumenti, ahimè, e lo dico qua da italiano convinto, con la bandiera in mano, sono strumenti, qua c'è un cellulare che vibra, sono strumenti che arrivano da prevalentemente Stati Uniti, mondo anglosassone, cioè Facebook eccetera eccetera. Le società invece che si occupano di questo stanno nascendo in Italia per un motivo molto semplice, cioè la lingua? Ma in realtà perché il mercato delle startup italiano non è così male come lo si dipinge, e le startup tecnologiche in Italia sono molte e abbastanza in gamba. Quale che sia il social network su cui si fa riferimento non è così importante come la tecnologia che invece viene sviluppata, come quella che noi abbiamo sviluppato per gestire la business intelligence. Se il prossimo social network importante sarà cinese, non sarà un problema adattare la tecnologia di business intelligence a un nuovo social network. È importante invece sì il fatto di comprendere che la lingua italiana ha a volte delle sfumature importanti, lessicale, è una lingua complessa, e che la vicinanza rispetto a un cliente locale che deve gestire la sua pagina Facebook o la sua reputation è probabilmente ancora fondamentale. Molto bene, vi ricordo la nostra pagina Facebook se volete continuare la discussione online, molto semplice, facebook.com/2024, scritto per esteso in parola. Sono le 16:58 minuti, è tutto per questa puntata, grazie a Matteo Flora che ci ha fatto compagnia e ci ha raccontato molte cose nuove che non sapevamo. Matteo Flora è fondatore di The Fool, a presto, buon lavoro, ciao Matteo. Ciao. Noi ci risentiamo la prossima settimana, naturalmente parleremo molto ampiamente del Consumer Electronics Show, del CES. Grazie a Roberto Scaltriti che si è occupato della parte tecnica, io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi anche scrivendo un messaggio di posta elettronica a 2024@radio24.it. Non dimenticate di scaricare la nostra puntata, anche solo per tenerla in archivio, attraverso il servizio podcast di Radio 24. Buon ascolto con i nostri programmi e appuntamento alla prossima settimana. 2024. 3, 1 second, 0.